I belong to these ideas, football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time and revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti, la trasmissione di Radio Città Fujiko per avvicinarci alla 21esima edizione di questa iniziativa sportiva curata dalla WISP che unisce le culture, le storie e le provenienze. Insomma, i mondiali antirazzisti sapete cosa sono, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko. Un buon pomeriggio, benvenuti alla seconda puntata di questo format di avvicinamento. Il numero di SMS e WhatsApp per interagire con noi è il 333-180-9494. Ve l'abbiamo già detto, ma ve lo ripetiamo perché ne siamo particolarmente orgogliosi e fieri. In questa edizione Radio Città Fujiko è radio ufficiale dei mondiali antirazzisti e dunque ci stiamo già occupando appunto di quello che succederà fra meno di un mese, ma quando si svolgerà noi saremo là con delle dirette, delle interviste, dei DJ set, insomma tante cose che testimoniano la fratellanza e l'amicizia che c'è tra Radio Città Fujiko e mondiali antirazzisti. Ogni giovedì, da qui al 5 luglio, che è il giorno di inizio di questa 21esima edizione, poi i mondiali antirazzisti proseguiranno fino al 9 di luglio, anticiperemo e, come dire, approfondiremo i temi connessi appunto ai mondiali, che sono, dal nome ovviamente, un'occasione di lotta al razzismo, ma anche al sessismo. Insomma, sono tanti i temi che gravitano attorno a questo evento. Ma, come dire, ogni evento che si rispetti non è solo così momento di riflessione e tristezza, ma è anche momento di riflessione e gioia, ad esempio attraverso la musica, e in questa puntata parleremo proprio della musica che troveremo alla 21esima edizione dei mondiali antirazzisti. Avremo un'introduzione generale da parte di chi cura per la WISP questa parte, la parte musicale, ma poi avremo interviste a tre gruppi, tre dei tanti che suoneranno. In particolare suoneranno il 6 luglio i Scassapanca e lo Sfastidio, il 7 luglio in Ujo e Folca Bestia, e l'8 luglio una giornata proprio piena di concerti con gli Avvoltoi, la Balotta Continua, Emily Collettivo Musicale e gli Shandon. Dunque, in questa puntata vi anticipo già che sentiremo le interviste allo Sfastidios, alla Balotta Continua e agli Avvoltoi. Poi nelle prossime puntate sentiremo anche gli altri gruppi che interverranno e suoneranno ai mondiali antirazzisti. Direi però di cominciare subito con la musica di uno delle band che si esibiranno, in particolare nella prima giornata dedicata ai concerti, quella del 6 luglio. Apriranno, faranno da spalla allo Sfastidios, loro sono gli Scassapanca e il brano è Roots Against. Roots Against, la la la la la, Roots Against, la la la la, Roots Against, la la la la la, Roots Against, la la la la la, Roots Against, la la la la la, Roots Against, la la la la. Your home, it's not the place. My home is fucking roots against. Against the fears, against the system. We are for people, not for people business. And for the rights, we're standing up. And for the rights, we're working on. Dance and scream, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la. We are for dancing, car, drinking a beer. And for the rights, we're standing up. And for the rights, we're working on. Dance and scream, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la la la la. Roots against, la la la la la. Thank you. Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la, Roots Against. La la la la la. I mondiali antirazzisti, come sappiamo, non sono solo sport, sono anche incontri, ma anche musica. E per questo, in questa puntata, oggi parleremo proprio della parte musicale dell'edizione numero 21 dei mondiali antirazzisti. Per farlo siamo al telefono con colei che segue tutta questa parte, Lisa Cataldo, che saluto. Buongiorno Lisa. Ciao Alessandro, ciao. Allora, raccontaci un po' che cosa ci aspetta dal punto di vista musicale all'edizione di quest'anno dei mondiali antirazzisti. Allora, quest'anno è un'edizione molto molto piena, diciamo che tutti i giorni noi avremo concerti e DJ set in più spazi, quindi abbiamo tanta musica dal mattino a notte fonda. Infatti partiamo, ad esempio, durante i tornei al pomeriggio sui campi ci saranno dei DJ set a partire dalle 3 del pomeriggio ad arrivare fino alle 6 di sera. Poi la sera ci spostiamo per i concerti nell'arena concerti, nell'arena, dove avremo giovedì sera i Los Fastidios, il venerdì il Folca Bestia e il sabato quest'anno proviamo a fare una sorta di festival nel festival. Facciamo, come dire, una kermesse che ci porterà dalle 6:30 del pomeriggio fino a notte fonda con un alternarsi di band amiche dei mondiali, che sono appunto quelle band che partecipano e vivono il festival con noi, quindi molti sono anche iscritti ai tornei, come ad esempio la Balotta Continua o il Collettivo Musicale di Parma. E poi chiuderemo con gli Shandon, che ci daranno l'appuntamento all'edizione del 2018. L'ultimo spazio che abbiamo si chiama We Space ed è uno spazio dedicato ai più giovani, quindi ai ragazzi solitamente compresi dai 18 ai 25 anni, che avranno uno spazio a disposizione con amache, quindi una vera zona chill out, dove la sera ci saranno dei DJ set più dedicati a loro. Quindi avremo il giovedì ad esempio una serata più improntata sul reggae, il venerdì probabilmente sulla musica folk e il sabato avremo dei ragazzi, un gruppo di tedeschi che partecipano appunto ai mondiali antirazzisti con una serata techno. Poi nel corso di questa trasmissione noi sentiremo alcune anche delle band che si esibiranno sul palco centrale, diciamo. Ad aprire lo Sfastidio saranno gli Scassapanca e ad aprire i Folca Bestia saranno i Nuju. Quindi, insomma, ho citato anche quelli che non avevi citato prima e ci saranno anche dei DJ set dopo i concerti, giusto? Assolutamente, perché appunto per il Mondiale Antirazzisti la musica è fondamentale, perché la nostra arma contro il razzismo non sono solo le parole ma sono i fatti, quindi noi cerchiamo di mischiare tutte le persone, tutte le culture e dialoghiamo anche proprio col linguaggio della musica. Quindi i DJ set che avremo saranno giovedì sera un DJ set più dedicato allo ska, al punk, alla musica oi di Passerotto, che è un DJ di Modena, un carissimo amico anche dei Los Fastidios. Poi avremo il venerdì invece il DJ set di Raggio Città Fugico e il sabato l'Internazionale Trece Ribelle da Bologna per una serata all'insegna del divertimento più totale. Certo, quindi insomma anche solo per la musica vale la pena di venire ai mondiali antirazzisti. Io, Lisa, ti ringrazio per questa panoramica e poi, come dicevo, fra poco sentiremo anche i gruppi musicali. Grazie mille. Grazie a te, Alessandro. Allora vi aspettiamo anche voi di Raggio Fugico ai mondiali antirazzisti. Certo. A presto. Ciao, ciao. E ora ci ascoltiamo un brano di un'altra band che si esibirà ai mondiali antirazzisti di quest'anno, in particolare il 7 luglio, i Folca Bestia, e ci ascoltiamo alla manifestazione. del pazzo in un caffè, che Mascia fa la manifestazione. Picchi un pane e un provolone, non scordano un pannolino, picchi un miro con due buone e peppine. Con Giovanni San Pasquale, che ci sono un mandolino, due peppine, che si frega tutto un mir. Siamo arrivati a Roma, uè! Tutte quante alla manifestazione. La mano a papà, tutto insieme, bella sta fotografia. Fa assumire state cheat, fammi sentire un pic, che sta a parlo con te della CGL. Di una sene sciuto sen, e tu se sombriacato, tre se facile, non spinita, non schinù. A faccio Berlusconi, tutta quanta la manifestazione. Chiamaretta a casa, ogni dia un bacio alla televisione. Questa Mascia fa de ga, e ci vogliono licenziare. Non ci donna, manca la liquidazione. E ne manca la pensione, i tengo una famiglia. Doi a scia, spalle rocco, quattro pic. Abbascio canalone, uè, tutta qua alla manifestazione. Siamo al telefono con Enrico, voce frontman dei Los Fastidios, che saluto. Ciao Enrico. Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, Los Fastidios suoneranno i mondiali antirazzisti nella prima serata dedicata ai concerti, quella del 6 luglio. Il vostro in realtà è un ritorno, perché non è la prima volta che siete ai mondiali, anzi potreste essere definiti una resident band, giusto? Praticamente sì, diciamo che ai mondiali è un po' ci sentiamo praticamente a casa, torniamo dopo un paio d'anni di assenza dei mondiali, siamo molto molto molto contenti di ritornare ai mondiali e quest'anno fra il resto saremo appunto in prima serata ad aprire le danze insieme ad una band molto amica di Scassapanca e dopo di noi DJ set dell'amico Passerotto. Diciamo una serata tra amici con tantissimi amici che arriveranno un po' da tutta Europa, che siamo soliti incontrare nei nostri tour europei. Diciamo che i mondiali antirazzisti appunto è una grande festa in famiglia e quindi siamo ben contenti di tornare in famiglia per una serata di festa. Ecco, non solo per numero di presenze, ma come dire, voi siete una band che con i mondiali antirazzisti ha molto a che fare, anche per i temi che rappresenta questa manifestazione, che sono, come dire, espressi anche da molti album della vostra discografia. Ma assolutamente, diciamo, infatti la forza dei mondiali sono appunto prima di tutto i valori dei mondiali, l'antirazzismo, la lotta contro ogni forma di discriminazione, valori diciamo fondamentali anche da sempre della band Los Fastidios, la voglia di aggregazione, di sport dal basso, di unire dal basso e di lavorare insieme, costruire insieme, diciamo tutti i valori che fanno parte, diciamo che ce li abbiamo proprio tatuati addosso come Los Fastidios e ci fa doppiamente piacere partecipare a un'iniziativa di questo tipo. Un evento che secondo me e secondo noi rappresenta forse l'evento più importante dal punto di vista musicale e sportivo in Italia, proprio perché si riesce ad unire lo sport, la musica, dibattiti, incontri, aggregazione, diverse realtà, dai gruppi ultras alle associazioni a tutti diciamo i collettivi comunque che lavorano nel sociale. Una bellissima grande famiglia tutti uniti sotto la bandiera dell'antirazzismo. Quindi cosa si può chiedere di più da un evento come questo? Certo, veniamo al tema del tifo. La settimana scorsa con Carlo Balestri abbiamo ragionato sul fatto che i mondiali rappresentavano una scommessa, perché mettere insieme tifoserie diverse era anche abbastanza complicato. Spesso ci sono luoghi comuni sul tifo. Ma assolutamente sì, ma ripeto, cioè, per me è molto importante, ma questo sia nel tifo ma come nella vita politica, nella vita quotidiana. Secondo me è importante guardarsi in faccia tra tutti coloro che, diciamo, stanno da una certa dalla parte della barricata, guardarsi in faccia, mettere da parte certi dissapori, certi magari differenze, e lavorare di più insieme sui punti che abbiamo in comune tutti quanti. Vuoi appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, la lotta contro ogni forma di discriminazione. E questa è la cosa importante dei mondiali, e anche vedere comunque tifoserie storicamente, diciamo, nemiche nel giorno della partita unite ai mondiali è sicuramente una grossa vittoria dei mondiali antirazzisti, una scommessa sicuramente vinta da parte dei mondiali, a cui va dato atto a Carlo Balestri e a tutta la crew che da anni si sbatte con notevoli difficoltà per riuscire ogni anno a riproporre un evento come questo, che sappiamo bene non facile da mettere in piedi. Certo. Veniamo un po' al vostro ultimo lavoro, che avete fatto uscire, se non sbaglio, a gennaio di quest'anno, giusto? Esatto. Sì, è uscito, diciamo, il primo febbraio, se non vado errato. Sì, primo febbraio è uscito, esattamente, è uscito appunto per la nostra etichetta Cobra Records, e il titolo The Sound of Revolution. Oh, potrebbe essere anche un messaggio che si collega sempre comunque ai mondiali, no? Il suono della rivoluzione, certo. La rivoluzione che parte dal basso, questa voglia di musica, aggregazione e di mondo diverso. Eterni sognatori che siamo, continueremo sempre ad esserlo. Anche in questo album cerchiamo comunque di riproporre quelle che sono un po' tutte le nostre tematiche, e siamo molto contenti perché l'album sta andando veramente bene. Ecco, quanto ci avete lavorato, come è nato sostanzialmente? Ma è un album che nasce un po' come tutti gli album Los Fastidios, ovvero diciamo nasce soprattutto in tour, perché Los Fastidios, chi ci segue sa benissimo noi essere una band, proprio una live band, una band vecchia scuola, una band sempre on the road. Nasce da proprio in tour, pezzi che nascono, riff che nascono da in furgone, qualche ritornello che gira un attimo in furgone, e poi ci ritroviamo in sala prove la settimana successiva ad arrangiare, a sistemare il pezzo, a completarlo. È un album che è nato veramente tutto d'un fiato, un po' come tutti gli album Los Fastidios, quando ci mettiamo sotto, boom, l'album esce, siamo molto contenti. Abbiamo lavorato su quest'album, ti dirò, un pochino di più rispetto agli altri, ma soprattutto in fase, diciamo, di arrangiamento dei pezzi. E infatti, secondo me, il risultato finale ci premia, perlomeno per quanto mi riguarda, posso dire, per me The Sound of Revolution è stato l'album forse più completo e più bello dei Los Fastidios. E la cosa positiva è vederlo riproposto dal vivo e vedere la risposta appunto del pubblico molto positiva per le ultime canzoni. Anche recentemente, anche oggi, ho ricevuto un'altra recensione dalla Germania molto positiva. Diciamo che finora è stato recensito molto bene da tutte le riviste, sia soprattutto estera, perché purtroppo in Italia, ragazzi, noi abbiamo sempre dei grossi problemi per quanto riguarda la musica indipendente. È molto più facile per i Los Fastidios essere recensiti negli Stati Uniti, Inghilterra, Germania, un po' in tutto il mondo, che non in Italia. Questo non capirò mai il perché, però purtroppo è sempre il solito limite delle band indipendenti. In Italia oltre un certo gradino non si va, mentre all'estero si può anche osare e aspettarsi qualcosina di più dal, certo, proprio lavoro. Ecco, oltre ai mondiali antirazzisti, il tour che tappe prevede? Noi siamo, come dicevo, perennemente in tour, ormai dall'inizio dell'anno abbiamo già fatto, dall'inizio di gennaio avremo già fatto già più di una trentina, quarantina di concerti, abbiamo già una quarantina di concerti che ci ha portato già tra Italia ed estero. Adesso nelle prossime settimane, per dirti già questo fine settimana, saremo poi ci porterà il tour, ci porterà in Austria, Germania, poi ancora in Italia, e poi andremo a Manchester per un grande festival a fine giugno. Poi saremo ancora in Italia andremo appunto, oltre che ai mondiali, saremo a Cassano d'Adda, saremo a Monselice, in provincia di Padova, ad Empoli, e poi ancora Polonia, Germania, Francia. Faremo un grosso tour in Inghilterra ad agosto, che con due settimane di tour suoneremo altrettutto due concerti a Blackpool, a Rebellion Festival, un acustico il 4 agosto e uno elettrico, diciamo, ufficiale il 5 agosto. Saremo ad un altro grossissimo festival sempre in Inghilterra durante il nostro tour, al Boomtown Festival, che è la prima volta che partecipiamo, deve essere qualcosa di eclatante, ma proprio con numeri, con nomi grossissimi, dagli Specials a Tutti the Mites, altri grossissimi gruppi. Ci poi andremo, torneremo ancora a Londra, Glasgow, Aberdeen, e poi a settembre invece partiremo per il tour che ci porterà un po' di nuovo in tutta la Germania, oltre che in Scandinavia, e Norvegia, Svezia e Danimarca, e per poi andare fino a fine anno, diciamo, con un po' tutto l'est Europa. Andremo, toccheremo anche la Grecia, Svizzera, ancora Francia. Diciamo che sicuramente no, i Lost Fastidios non restano con le mani in mano, certo. Restano sicure, più facile forse restano col sedere sul sedile del furgone, quello sì, perché saranno tantissimi chilometri che ci vedranno percorrere un po' lungo e largo tutta Europa. Siete sicuramente internazionali e mondiali, verrebbe da dire, anche voi. Sì, sì, assolutamente, diciamo, assolutamente, di questo siamo molto contenti. Diciamo, comunque, e ti dico, la cosa bella è vedere come The Sound of Revolution veramente sta portando suoni di nuovi suoni di rivolta che piace a noi, la vera rivolta che parte dal basso. Rivolta che non è certo la rivolta fatta con le armi, ma la rivolta della gente che ci crede, la gente che crede in un mondo diverso, un mondo possibile, e noi eterni sognatori continuiamo ad andare avanti per la nostra strada, sicuri che nessuno potrà mai fermarci. E allora fra pochissimo ascolteremo una traccia appunto di questo vostro ultimo lavoro. Per adesso io, Enrico, ti ringrazio e in bocca al lupo. Assolutamente, un grazie di cuore, rinnovo ovviamente a tutti gli ascoltatori l'invito per il prossimo Mondiale Antirazzisti. 6 luglio, Los Fastidios, Casa Panca, Passerotto DJ, e festa sarà. Un abbraccio a tutti, The Sound of Revolution. Ciao, grazie. E allora non ci resta che ascoltarci la title track dell'ultimo lavoro del Los Fastidios, Sound of Revolution. Everybody wants, everybody needs, everybody loves, everybody wants. Everybody needs, everybody loves, everybody wants the sound of evolution. Everybody needs, everybody loves, everybody wants the sound of evolution. No. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time and revolution. Torniamo insieme in questa puntata di Aspettando i Mondiali Antirazzisti, questa trasmissione che trovate ogni giovedì fino all'inizio dei Mondiali Antirazzisti, che sarà il 5 luglio. Oggi stiamo parlando di musica, di quelli che sono i concerti previsti durante l'iniziativa, appunto al Parco di Bosco Albergati. In particolare i concerti ci saranno il 6, il 7 e l'8 luglio, ma ci sarà tanta musica anche diversa dai concerti, con DJ set in diversi punti, musica mentre ci sono i tornei di calcio, insomma quanto ci ha spiegato prima Lisa Cataldo. Abbiamo sentito Los Fastidios e ora è il momento di sentire un'altra band protagonista dei concerti. Beh, insomma, si tratta di Amici. Noi siamo al telefono con Moreno Spirogi degli Avvoltoi, che saluto. Ciao Moreno. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, Moreno è una voce che ovviamente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko conoscono già. Voi suonerete ai mondiali antirazzisti l'8 luglio in una serata molto ricca, perché insieme a voi ci saranno i Balotta Continua, l'Emily Collettivo Musicale e gli Shandon. È la prima volta che suonate ai mondiali antirazzisti? No, non è la prima volta, ne ho suonato, se non vado errato, nel 2010 con i Classe Criminali. Infatti gli abbinamenti, cioè diciamo che noi fra virgolette stoniamo un po' sempre, no? Perché siamo un gruppo che comunque è diverso dai soliti che chiamano, che spesso appunto sono il levare, come si dice, oppure più sullo scapunk. E invece così ogni tanto capitiamo noi. Voi siete un gruppo permesso. In battere? Noi siamo esatto, in battere. Magari faremo una sorpresina, ma siamo di base un gruppo in battere, quindi... Però è sempre bello ed è giusto secondo me anche per il pubblico, per gli utenti, ma anche per loro, cambiare, mettere in mezzo ogni tanto qualcosa, anche perché poi dai, abbiamo abbastanza a che fare con il calcio, insomma. Sì, siete tifosi e come dire, quell'atmosfera, quelle atmosfere che si respirano in quelle giornate, insomma, vi sono piaciute? Beh, direi proprio di sì. Poi sai, mondiali antirazzisti, già la parola per sé basterebbe quella. E no, poi io ho avuto una militanza molto molto lunga sia allo stadio che al palazzo, quindi a me quando, solo quando mi si accende un fumogeno mi vengono i brividini, pensa come sono. Eh beh, l'emozione di una storia, insomma. Sì, dai, la mia adolescenza l'ho passata più o meno lì, quindi dai, mi è rimasto ovviamente. E quindi siamo naturalmente ben felici di suonare lì, anche perché poi magari si rivedono tante persone che negli anni magari hai perso, eccetera. E no, è sicuramente una bella esperienza, come lo è stato appunto nel 2010, che ovviamente per fare, come si dice a Bologna, gli sboroni, abbiamo voluto anche fare la squadrettina degli Avvoltoi con tanto di magliette, eccetera. Naturalmente abbiamo perso. È andata malissimo. È andata malissimo, però dai. Lo scopo era rimanere vivi quel giorno lì. Esatto, ma vabbè, ma i mondiali antirazzisti sono fatti anche così. Anche la squadra di Radio Città Fujiko, la Dinamo Fujiko, insomma, è un po' che non arriva nelle parti alte della classifica. Però vanta dei top player, però io lo so, quindi. Vabbè, quest'anno però purtroppo non ci sarà un centrale difensivo di spessore. E come si chiama? Qual è il nome? Che mi ma no, non lo so, è un certo Curru. Vabbè, ah, va so. Bene. Perché appunto la radio sarà impegnata come radio ufficiale dei mondiali antirazzisti. Senti Moreno, in quel concerto sapete già cosa porterete come repertorio? Vi concentrerete sull'ultimo disco o, come dire, ripercorrerete la vostra lunga storia? Ma guarda, pensavamo comunque di fare una scaletta, fra virgolette, il più tirata possibile, perché come probabilmente sai, l'ultimo disco è un concept e quindi gode di momenti particolari che secondo me non sono troppo idonei. Magari facciamo sì un paio di brani per presentare il disco, ma cercheremo di fare una scaletta tiratina con appunto una sorpresina che copre un brano che abbiamo già fatto alcune volte, ma ci sta sicuramente bene in quel contesto, che non posso svelare. No, no, certo, lasciamo la suspense, perché così appunto sono motivati anche gli ascoltatori a venire al concerto. Manca ancora un po' di tempo, però insomma si può segnare sul calendario appunto per la serata dell'8 luglio. Tra l'altro appunto gli Avvoltoi, come dire, è vero che tutte le altre band sono ska punk, quindi tendenzialmente fanno ballare le persone, però anche gli Avvoltoi, io ho assistito a diversi concerti, insomma la gente balla. Beh certo, c'è un'altra linea sonora sicuramente con riferimenti più 60-70, che poi oltretutto, volendo, è anche collegabile, seppur da lontano, con molte cose, con molti altri gruppi che ci sono lì. Sì, il piedino lo muovi, dai, se vuoi, dipende dai gusti, se uno ne ha voglia, ma sicuramente, dai, c'è sempre un ambiente molto sereno, ricettivo, la gente ha voglia di stare lì a divertirsi, e spero e penso che non ci siano dei problemi, nel senso che la gente, dai, un ballettino lo farà anche con noi. Ma certo, certo. E io Moreno ti ringrazio. E ringrazio te. E allora ricordo l'appuntamento nella serata dell'8 luglio, che se non sbaglio è sabato, gli Avvoltoi insieme a Shandon, Balotta Continua, Emily Collettivo Musicale. Grazie mille e a presto. Grazie a te, ciao a tutti, grazie, ciao. E allora adesso ci ascoltiamo un brano estratto dall'ultimo lavoro degli Avvoltoi, che si chiama Confessioni di un povero imbecille, ma la canzone vi spinge a essere tutti ai mondiali antirazzisti. Il treno va, ho preso un biglietto controllore e sarai qua, e per il momento può bastare. Vi voglio finalmente tutti qua. Non devono mancare le parole. Prima non so se avevo mai provato a morire. Vi voglio finalmente tutti qua. Si apre qua la nuova era di questo coglione. E suonerò forza di chi vive. Torniamo insieme in questa puntata di Aspettando i Mondiali Antirazzisti dedicata alla musica. Stiamo parlando dei concerti che si terranno nel Parco di Bosco Albergati proprio durante i Mondiali Antirazzisti, promossi ovviamente dai Mondiali Antirazzisti, il 6, il 7 e l'8 luglio in particolare. Va detto che, come abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, il 7 luglio, dopo i concerti di Folkabestia e Nuju, ci sarà il DJ set di Radio Città Fujiko, e in particolare alla console ci saranno il nostro Peter Skanking, che di ska insomma ne mastica, e il nostro Mingo DJ, per spaziare anche un po' in altri generi. Dopo aver sentito le parole di Moreno Spirogi degli Avvoltoi, ritorniamo decisamente con sonorità in levare e siamo in collegamento con Simone, che è il frontman della Balotta Continua. Ciao Simone. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Anche voi suonerete ai Mondiali Antirazzisti nella giornata di sabato 8, se non vado errato, che sarà appunto la giornata con tanti gruppi. È la vostra prima volta ai Mondiali? No, noi Mondiali siamo di casa in un certo senso, perché ai Mondiali siamo nati nel 2007, ai Mondiali abbiamo suonato nel 2014, adesso ci risuoniamo nuovamente quest'anno. Abbiamo suonato il 2014 prima della banda Bassotti, è stata bellissima e indimenticabile, sarà così sicuramente anche quella di quest'anno. Certo, ecco, oltretutto voi non vi limitate a suonare, ma solitamente avete una squadra, no? Che partecipa al torneo di calcio e, purtroppo, devo ammetterlo, è molto forte. Beh, su questo molto forte sembrerai un velo pietoso, però forse voi siete molto deboli, dipende dai punti. Sì, abbiamo la squadra, perché in realtà noi siamo nati come squadra all'interno dei Mondiali Antirazzisti, poi da squadra all'interno dei Mondiali Antirazzisti siamo diventati gruppo musicale, e poi la parte di gruppo musicale ha preso assolutamente il sopravvento sulla parte della squadra di calcio, che è sempre più triste, sempre più fiacca. E nonostante questo, però, tutti gli anni ci ostiniamo a giocare, ma soprattutto nonostante questo mi piace ricordarlo che nel 2012 comunque il torneo l'abbiamo vinto. Tra lo stupore generale, eravamo andati credo a un milione, come è che qualcuno si è fatto i soldi con la nostra vittoria, perché non ci avrebbe creduto nessuno, ma nel 2012 abbiamo vinto i Mondiali Antirazzisti. Vedi, poi che allora non sbagliavo a dire da lì in avanti sempre fuori ai gironi, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. C'era una buona stella nel 2012. Vabbè, ma ci sono squadre che hanno vinto i mondiali, quelli insomma del calcio professionistico, e poi dopo sono sparite, insomma. Quindi, d'altronde, insomma, se la Grecia ha vinto gli europei, noi, ecco, infatti, i Mondiali Antirazzisti. Senti, il pubblico di Bologna ovviamente vi conosce, però magari, appunto, visto che parliamo di mondiali, raccontiamo un po' che musica fate. Ma noi riprendiamo vecchie canzoni, soprattutto canzoni di lotta, canzoni comuniste, canzoni partigiane, canzoni anarchiche, canzoni pacifiste, dal fino all'Ottocento ad oggi, e le riprendiamo il testo e le stravolgiamo completamente in quelle che invece sono le sonorità. Ci mettiamo sotto un po' di musica elevare, qualche chitarra distorta, e le rendiamo nuovamente attuali, quindi dalle canzoni di Pino Masi, Pietrangeli, Ivan Della Mea, fino alle canzoni partigiane e fino alle canzoni anarchiche, indietro così, le riattualizziamo, diciamo così, le rendiamo nuovamente fresche. Ecco, come dire, i vostri concerti io ne ho viste qualcuno e insomma la gente balla, perché le sonorità sono quelle ska, siete molto carichi anche con un set di fiati, e come dire, queste canzoni, tu dici, hai detto prima, le rendiamo di attualità, però insomma sembra un mondo quello raccontato nelle canzoni che reinterpretate che, vista l'attualità, sembra finito. È un mondo che sicuramente sembra finito, che sembra non esistere più, però c'è qualcuno come noi a cui piace credere che possa tornare quantomeno, o che possa esistere almeno una volta, se mai è esistito il mondo che cantiamo in quelle canzoni. E quindi diciamo che almeno quelle 2 ore dei nostri concerti, poi credo che ai mondiali sarà 1 ora, però insomma lo spazio dei nostri concerti, torniamo indietro nel tempo e ci creiamo un mondo nostro in cui si balla, in cui si suda, in cui si canta, in cui si alza il pugno, in cui non si ha problemi a chiamarsi compagni. Certo. Ecco, oltre ai mondiali siete stati suonando anche in giro? Ma noi suoniamo sabato prossimo al Capolinea a Faenza, nel centro sociale Capolinea di Faenza, ma forse giovedì 22, ma non è ben chiaro, dovremmo suonare da qualche parte in zona universitaria. Poi invece suoniamo a luglio, il 15 luglio a Brescia, e il 22 luglio a Cabudrio, sopra sull'Appennino credo fuori di testa, ma non sono molto sicuro, non sono molto pronto. Però sì, stiamo suonando, non ci lamentiamo, insomma. Tra l'altro, il concerto, se non abbiamo altri concerti in mezzo oltre a questi, quello di dei Mondiali Antirazzisti dell'8 luglio, sarà il nostro 100° concerto, quindi comunque insomma numero tondo. Un traguardo che festeggerete appunto a Bosco Albergati. A Bosco Albergati, insieme a chi vorrà alzare il pugno, a chi vorrà cantare, a chi vorrà bere. Allora non mi resta che rinnovare l'appuntamento e appunto la Balotta Continua suonerà l'8 luglio ai Mondiali Antirazzisti insieme a Shandon, a Voltoi, Emily Collettivo Musicale. Grazie mille Simone per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. E allora prima di ascoltarci la cover della Balotta Continua, in particolare su un pezzo che forse qualcuno di voi conosce perché è molto celebre, Il Vestito di Rossini, e noi concludiamo la puntata speciale di oggi. Ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre con Aspettando i Mondiali Antirazzisti e nuovi approfondimenti su quella che sarà la 21esima edizione, lo ricordo ancora una volta, dal 5 al 9 luglio a Bosco Albergati. Ciao a tutti e a tutte. Detto, ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sor commissario, mi conoscete, confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male, tu sai benissimo, conosco dei mezzi, che anche le tombe fanno parlare. Sor commissario, i vostri mezzi sono tre ore che li sopporto e se volete vedermi morto, continuate pure così. Li hai anche tu, sor commissario, voi lo sapete, quali che sono i veri assassini, quelli al servizio degli aguzzini, che questa vita ci fanno far. E questo sangue che ho sul vestito è solo sangue degli innocenti, che protestavano perché fra i denti solo ingiustizia hanno ingoiato. Aveva solo vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, ma lui gli dissero domani ai padroni, gliela faremo pagare. E il domani, quando era già l'alba, aprì l'armadio e il vestito si mise. Guardò allo specchio, la faccia sorrise, guardò allo specchio e si disse di sì. E andò alla fabbrica ed erano in mille, tutti gridavano l'odio e il furore. Forse Giovanna il vestito vedeva, in quella folla fra tanto colore. Ma l'hanno visto con un sasso in mano, che difendeva un ragazzo già morto. Ma quel che conta è che a uno di loro un San Pietrino la testa sfasciò. Ed ha scontato 20 anni in prigione, perché un gendarme si è rotto la testa. Ormai Giovanna ha 3 figlie in pensione, chissà se ha visto il vestito da festa. Ma quel che conta è che a uno di loro un San Pietrino la testa sfasciò.